Putingrad è una città modellata sul sistema politico del momento, la continuità del potere è rappresentata dalle prossime elezioni del 2 marzo. Leonardo Cohen, corrispondente di Repubblica da Mosca, oggi ci parla di Putingrad, la Mosca di Zar Vladimir. Sì. Putingrad è una città modellata sul sistema politico del momento. Putin cede la poltrona del Cremlino all'amico del cuore. Il tuo libro parte da una via, da una grande via che è la prospettiva Kutuzovsky, e racconta di come in una città di quasi 15 milioni di abitanti, caotica, possa esserci un momento in cui tutto si ferma. Quella strada è abbastanza emblematica. Pochi chilometri più in là, Napoleone si fermò perché credeva che gli portassero le chiavi della città, e poi la storia la sappiamo. Le truppe di Stalin della Seconda Guerra Mondiale facevano la sfilata, brevissima sfilata al Cremlino, e poi partivano sempre per questo Kutuzovsky Prospetto per andare a combattere i nazisti. Lì accade che si blocca tutto, improvvisamente tutto era fermo, le macchine della polizia al centro della strada e la gente ferma, immobile, come in attesa di arrivare, ad aspettare. Chi? Prima delle macchine della polizia, staffetta, così poi arrivano volando, ma la velocità grosso modo sarà sui 170, da 180, arrivano tre gipponi Mercedes che fanno da corona, questa Mercedesona con la bandiera della Russia, e Putin arriva, passa. E nel momento stesso in cui passa, la vita riprende, ma non le macchine, la gente che ferma ricomincia a muoversi. È chiaro che Putin ha segnato non solo gli 8 anni della sua presidenza, ma di fatto, oggi lo possiamo dire, ha dato una svolta che ancora su cui dobbiamo riflettere, su questo paese. È un paese che tra l'altro si è lasciato andare a un'ostentazione che a noi appare persino imbarazzante, della ricchezza, del benessere. Lui invece non è un uomo che ama l'ostentazione, no, in sé. No, assolutamente. Lui è un uomo discreto, vabbè, è il suo mestiere, faceva la spia, è un uomo discreto, la sua famiglia è sempre rimasta nell'ombra, è un uomo dell'ombra. E poi soprattutto è apprezzato dai russi perché viene dopo quegli anni eziniani che la gente di oggi lì a Mosca chiama già anni torbidi, e poi ha dato quella patina di orgoglio che era stata perduta perché la Russia era diventata un paese, una potenza regionale, e invece adesso è prepotentemente tornata, rivendica il multipolarismo, contesta l'unipolarismo, il famoso discorso di Putin veemente a Monaco di Baviera giusto un anno fa. Rivendica un ruolo e dice: noi siamo necessari all'Europa, perché noi vi forniamo ciò che a voi serve per creare posti di lavoro, benessere. Ma vogliamo essere pagati, non siamo più gli zerbini. Con Putin anche l'immagine pubblica della Russia cambia prepotentemente. Prepotentemente, lui è una persona morigerata a vedersi, però ha una cosa che assolutamente non è morigerata e che lo ha reso popolare: il suo linguaggio. I putinismi, le sue frasi, il modo di parlare diretto, dicono i russi che è il modo di parlare della strada, del cortile. Di recente ha parlato delle chiacchiere sul suo presunto tesoretto di 42 miliardi di dollari, caccole da naso, eccetera. È un linguaggio che però piace. Perché? Perché in passato non si capivano, c'era Gorbaciov, aveva un linguaggio poco chiaro, nessuno capiva, poi Brezhnev addirittura era patetico, un giorno gli scappò anche la dentiera. I russi capiscono Putin, lo apprezzano, perché? Perché forse per un'anomalia dell'economia, nel senso che il favorevole corso delle materie prime ha fatto esplodere ha fatto esplodere le finanze del paese, l'economia versa in stato pietoso ed è dopata dalle centinaia di miliardi che vengono inglobate grazie al petrolio. Loro hanno tutto, una delle grandiose risorse del prossimo futuro è l'acqua, loro hanno più acqua di tutto il resto del mondo, più ancora del Canada. E quindi sono consapevoli di questa ricchezza, vogliono giocarsela. Tra 2 giorni il voto. Medvedev, presidente di Gazprom, che già di per sé è un incarico non banale, è il vincitore annunciato. Ma potrà essere un presidente o sarà condannato a essere un delfino? In Russia c'è sempre stata la trasmissione di potere. Nell'Unione Sovietica il sistema si perpetuava, poi in realtà si scopriva che dietro c'erano delle faide terrificanti. Sintomi di queste faide ci sono state nei mesi scorsi e ce ne sono tuttora, il che significa che si stanno ancora aggiustando gli equilibri. Però interessa a tutti, ma proprio a tutti, alla gente che vuole stabilità e tranquillità e sicurezza, all'establishment dei silovichi. I silovichi sono i rappresentanti delle strutture di forza. E a loro interessa avere un passaggio senza traumi. Si sono spartiti la torta e sicuramente Putin cercherà di fare il regista. Ma in realtà, come in una strana intervista ai Togui, Medvedev ha detto che il presidente è sovrano. E poi mi hanno detto che lui all'interno di Gazprom ha una fama di essere un uomo piuttosto spietato nelle decisioni, cioè un uomo di decisioni. Dietro questa apparente faccia da bravo ragazzo, da liberal come vuole, qual è il messaggio che loro vogliono trasmettere agli europei, al mondo occidentale. Negli ultimi giorni sta comunicando molto la sua passione per la musica, musica rock, l'Occidente, i Deep Purple piuttosto, sì, che Black Sabbath, eccetera. Molto confuse queste cose. Però poi la gente si è arrabbiata moltissimo quando hanno saputo che per la festa di Gazprom sono stati spesi 2 milioni di dollari. Cioè ci sono delle contraddizioni che denotano che il sistema si perpetua, il personaggio è conforme al sistema precedente, è stato per 17 anni il braccio destro di Putin, è stato l'architetto di un sacco di operazioni su cui tutti i giornalisti che hanno cercato di saperne di più sono finiti o male o sono stati convinti a cambiare mestiere. Quindi è un personaggio da illuminare ancora, certo. Come in fondo è stato Putin. Leonardo Cohen, in Putingrad emerge come l'aspettativa di un passaggio senza traumi sia anche l'aspettativa del mondo economico occidentale. Assolutamente, perché stanno facendo splendidi affari e non vogliono perderli. E i più preoccupati sono quelli dell'ENI, perché avevano un canale privilegiato con Medvedev e adesso non si sa se veramente l'attuale premier diventerà il successore, anche se è candidato a esserlo, Zubkov. E quindi bisogna vedere i giochi. Tutto questo intanto si sedimenta questa che definisci la democratura. Sì, che poi è una definizione... Democrazia, dittatura. Dittatura, sì, che è una formula... non propriamente mia, ma è una formula di uno storico francese, di un analista francese che ha chiamato così questa sorta di amalgama tra un sistema autocratico, una democrazia impropria e una dittatura fatta dagli uomini dell'ombra. Non è una fase transitoria, è probabilmente l'immagine più coerente della Russia? Loro stessi dicono che le cose potranno, come dire, cambiare in direzione più vicina alla democrazia, ma soltanto a partire dal 2020. Si danno delle scadenze abbastanza lontane. Grazie a Leonardo Cohen. Putingrad, la Mosca di Zar Vladimir, con il testamento politico di Vladimir Putin, che merita di essere letto nelle ultime pagine, edito da Alet. È un libro di 240 pagine, costa 14 euro. Buona lettura.